Gioino, vuoi sai Laura che fumi? No! Fa niente, bel di che stai! Va bene, avanti, canta, mes! 1, 2, 3, 4! Giurate, il vaso le fa in 3! Va bene! 1, 2, 3, 4! E op! Vorrei sapere il mestè che fumi, comincia i desor, finisce a mestè. Giri la baia col moto furgon, vendi le sciva so de saon. Mi vuoi in gir de chi è de là, mi vuoi in gir alla ora. Fa una pigna de carte mila, me vengo in mente compra la balela. L'estate la rabbia di me fratei, che incomincia a scagnarmi più dei. La mia cugina che sta in via larga, la va a mangiare anche la targa. La mia zia de Gorgonzola, conti com la fa la casella. Il menonu che il calangina, la ciappa la gioca con la benzina. E il franchino il più se fedele, il ma porta via tutti i candel. E il carnera che il tira de destra, un tombo fel mesce va in palestra. La Maria la sta in la mia porta, la mamma già la reda de scorta. E il tedeschi sliffel ne sloffel, e il mamma già in tombo con tutto il coffin. Il marescial di carabinier, conti in bocca i quaterportier, gli sgagnava senza rispetto, insieme al porter la magnanca i manet. Il carletto stupidote se fa un vestito con la capot, i mene ut più se piscini. Salta in vettura, mangia, manca i vin. A Grevin che vende bacio, il ciapirete il me mangia i raggi. Lindo un canton che il Salvador, conti in buca e radiador. Passo un fio senza dentini, il me disvida i lampadi, il me fratello, il malato, il diabete, la finta del niente, se mangia il magnete. Il me portinal che il porta iucciai, salta su a mangiarmi fanai, poi in quest'ora de nucciai dan, quanto un vendreghe pugnanca il pedan. Avo per casa trova mia sorella, che trovi in campi stu e na biela, quanto un vendreghe resta sulla mente. Il fun del tubo d'escapamento.